Sì, che in parte sono stati già affrontati, quindi il mio compito è quello soprattutto adesso di rifare più o meno un flash su quelli che potrebbero essere appunto i rischi e le conseguenze ambientali sulla salute e quindi sul nostro territorio del rigassificatore di Falconara. Un grande quindi impatto ambientale a scapito però e a fronte di pochi vantaggi. Partiamo da quelli che sono i rischi di incidente. E posto che la tecnologia utilizzata per questo rigassificatore sia, diciamo, di ultima generazione, nessuno può escludere, in base a quello che abbiamo detto fino adesso, incidenti dovuti sia a errore umano, diciamo, eventi catastrofici, ma anche se non di meno, diciamo, possibilità, anche attacchi terroristici. Si tratta sicuramente di eventualità remote, siamo tutti d'accordo su questo, però non completamente assurde, soprattutto per quanto riguarda quello che è l'errore umano. Secondo tutta la comunità scientifica, infatti, la pericolosità di un impianto non si basa soltanto e non va valutata soltanto in base alla tecnologia, ma anche in base alla vulnerabilità, cioè il contesto in cui sorge questo impianto. E un impianto realizzato, facciamo un ipotetico esempio, in un deserto, chiaramente ha una vulnerabilità pressoché nulla. E quindi anche il danno che si potrebbe creare in seguito a un ipotetico incidente è molto limitato. Se pensiamo invece al discorso di Falconara, chiaramente cambia. Se pensiamo che appunto abbiamo una raffineria, una centrale elettrica e un aeroporto. E pensiamo tra l'altro che la presenza di numerosi siti a rischio di incidenti rilevanti fa sì che il territorio sia sottoposto a quella che è la cosiddetta legge Seveso. Infatti Falconara, considerando che ha questa elevata concentrazione di siti a rischio, fa parte, diciamo, è sottoposta a questa direttiva. La legge Seveso ha spinto tutti i paesi che fanno parte, diciamo, dell'Unione Europea a dotarsi di una politica comune in materia di prevenzione per i rischi di incidenti. Questo a partire dal 1982. La direttiva si è poi evoluta nel tempo fino ad arrivare alla Seveso 2, al fine di limitare quello che viene chiamato in termine tecnico l'effetto domino, cioè un effetto a catena che si potrebbe scatenare in seguito a un incidente relativo a un impianto e che quindi potrebbe poi manifestarsi in tutte le zone vicine. Ricordiamo inoltre che stiamo parlando di una zona che tra l'altro è a rischio anche sismico, attraversata da una statale e da una ferrovia, quindi è anche diciamo, a traffico rilevante. Tra l'altro, tale normativa, con le sue successive varianti, prevede che per gli impianti a rischio di incidente rilevante, nelle zone interessate, gli enti territoriali tengano conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione, dell'assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico e le vie di trasporto principali. Vi porto un esempio. Nel 2003, in una città della California, una città turistica, fu proposta diciamo, un impianto molto simile al nostro, un impianto offshore. E i sindaci interessati chiaramente si opposero a questo e commissionarono uno studio. Nel caso di peggiore incidente in questa cittadina di circa 150.000 abitanti, è stato fatto l'esempio di una nube di gas incendiario che si spingerebbe fino a 30 miglia, circa 500 km, distruggendo quindi 50 km, distruggendo tutto quindi circa nel suo cammino e creando chiaramente rilevanti morti. Tornando a parlare poi del pericolo, chiaramente oltre a quelli che ho elencato, da non meno è anche la fuoriuscita di gas. Gas che non è infiammabile quando è nelle condutture allo stato liquido, ma che alla fuoriuscita a contatto quindi con l'aria diventa volatile e quindi infiammabile. Numerosi sono stati anche gli incidenti registrati nel corso degli anni, anche riguardo a impianti di alta generazione. Ricordiamo nel 2003 uno avvenuto a Marsiglia, in Algeria nel 2004. In Belgio sempre nel 2004 e nel 2005 un'esplosione in Nigeria da parte di un gasdotto che aveva provocato 11 morti e ha letteralmente inghiottito un'area pari a circa 27 km. Chiaramente non solo i rischi ambientali, quindi le catastrofi ambientali che si potrebbero avere, ma anche, come è stato detto prima, innumerevoli rischi per l'ambiente e quindi la salute. Un problema non da meno, e dicevamo, è questo abbassamento di temperatura che potrebbe creare quindi uno sconvolgimento del nostro mare, se consideriamo tra l'altro che i nostri fondali sono molto bassi, quindi c'è anche un basso ricircolo rispetto ad altri fondali, diciamo, più profondi. Un abbassamento della temperatura di circa 7-5 gradi, che unito alla varichina che dicevamo prima, creerebbe quindi un grande sconvolgimento dell'ecosistema, con rischi da non poco anche per quanto riguarda poi la salute umana, perché chiaramente queste sostanze entrerebbero anche in quelli che sono le reti alimentari, quindi con dei danni anche per noi. Inoltre c'è oltre che diciamo l'ipoclorito di sodio utilizzato soprattutto per, dicevamo, per pulire le tubature, da questi impianti di scarico vengono limitate sostanze come anche rame e suoi derivati, cloro e suoi derivati. La comunità scientifica sta facendo degli studi anche per quanto riguarda il cloro, che viene utilizzato anche per disinfettare le acque, ed è stato evidenziato che il cloro, a contatto con degli acidi che vengono liberati da sostanze vegetali, provoca il trialometano, che è un alogeno del metano altamente cancerogeni, con danni epatici a livello anche renale e il sistema nervoso centrale. Ricordiamo poi che gli impianti possono emettere anche metano nelle atmosfere. E secondo degli studi americani, le caratteristiche chimiche del metano potrebbero contribuire in modo significativo all'effetto serra. È stato visto che il metano incombusto produce, a parità di peso, un effetto serra circa 21 volte maggiore rispetto a quello provocato dal biossido di carbonio. A questo si aggiungerebbe, per quanto riguarda anche l'ambiente, degli studi che ancora mi sembra che non sono neanche ben definiti, circa la rumorosità dell'impianto, che potrebbe provocare chiaramente anche questo impatto non solo sulla popolazione, diciamo, marina della zona, ma anche a larga distanza, perché le emissioni sonore giungono anche a largo raggio. Per concludere, una riflessione che è stata prima soltanto accennata, e cioè quella relativa al diritto dei cittadini che dovrebbero avere nel partecipare a questo processo decisionale. C'è una convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione con il pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, e non ultimo un articolo della legge Seveso sull'industria a rischio di incidente rilevante, che prevede espressamente la partecipazione della società civile qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti. Mi fermo qui in modo da poter dare spazio anche alle domande di altri. Sì, ora se c'è qualche intervento del pubblico per porre delle domande. Funziona questo? Vediamo se funziona questo. Lo prova. Gracias.